Ciao Simone, i miei progetti, la Gronda di Genova, un programma di recupero delle acque in Italia, acquedotti e anche sanificazione e disinquinamento delle acque, le piste ciclabili in città. Buongiorno Simone, io il mio progetto è fare una bella rete per la pubblica amministrazione, perché non si può, per via della lentezza della rete, aspettare 5-6 minuti che il computer si carica. Grazie. Ma come mai pensate che non può essere voluto questo virus dai scienziati? Ma come mai già sapevano che questo virus attacca i polmoni e fa respirare male le persone? Su quest'ultimo punto lo abbiamo detto, ne abbiamo parlato prima con Roberta Villa, ma se volete magari qualche altra volta ci torneremo, anche se è chiaro che non è un tema centrale in questo momento, perché il virus c'è, a prescindere da tutto, che come in qualche teoria del complotto si ritenga è stato ingegnerizzato o è perfettamente naturale, il virus c'è e con quello dobbiamo fare i conti, e quindi la questione è relativamente importante. Detto ciò, quello che abbiamo spiegato prima, e lo dico anche ai tanti ascoltatori che ci scrivono su questo tema, è semplicemente che la stragrande maggioranza della comunità scientifica non pagata dalla Cina, va bene, mettiamola così, non pagata dalla Cina, analizzando questo virus ha detto è naturale. O meglio, ha detto, è estremamente probabile che sia naturale, è improbabile che sia ingegnerizzato. Cosa vuol dire questo improbabile? Vuol dire che la scienza usa sempre questi termini e quindi l'indeterminatezza della quale ci accusa un ascoltatore che dice avete risposto con degli altri dubbi è dovuta proprio al come si comunica la scienza e com'è la scienza. È semplice questo. Spero, E poi i vostri progetti sul Recovery Fund, mandateceli, 349-238-6666, WhatsApp audio, le vostre voci, come spendereste questi soldi? Qualcuno ci scrive anche, voglio riparare la buca sotto casa. Vabbè, mandi. Ci siamo, è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa giovedì 17 settembre. Sono le 7:20 minuti e 17 secondi e i titoli dei giornali sono molto dedicati alle questioni dell'immigrazione e al discorso di ieri di Ursula von der Leyen. Se prendete per esempio La Repubblica, la svolta di Ursula, aboliremo Dublino. La Stampa, che intervista anche il ministro Amendola, via Dublino e i decreti sicurezza. Il tutto si mescola con la questione dell'uccisione di Don Roberto Malgesini, eroe della carità, stando al titolo di Avvenire. Ci è cascato anche il Papa, non è pazzo, è clandestino, è il titolo della Verità. E si parla dell'uomo di origine tunisina che ha ucciso il prete. Batte un colpo, l'Europa, si sottintende il Manifesto. Crescita e fisco piano al via, e questo invece è il titolo del Corriere della Sera, proprio su von der Leyen e sul governo. Tagli necessari dopo i fondi europei, anche qua il Messaggero titola sulle linee guida del governo, il monito sul deficit e l'invito a riequilibrare i conti che arriva ai ministri. Il Sole 24 Ore apre a proposito di economia sui mutui, tasso fisso sotto quota 0,50. 0,50%, 0,5% naturalmente. Il Fatto Quotidiano sui soldi della Lega, così hanno dirottato tonnellate di soldi. Libero su Meloni, batterò i grillini, parla di sorpasso vicino, e il Quotidiano Nazionale sul viceministro Sileri lo intervista e dice Sileri, sì, andiamo verso una quarantena breve. E iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso, e visto che l'ascoltatore di poco fa ci sollecitava sul tema della pubblica amministrazione e più che altro sulla velocità della rete della pubblica amministrazione, ci spostiamo a Roma, non per parlare di velocità della rete, ma di velocità a richiedere il denaro da parte dei dipendenti pubblici della capitale. Oh, era un po' che non si facevano sentire, era un po' che non ci occupavamo di quello che succede negli uffici di Roma Capitale. Comunali alla carica, racconta Lorenzo De Cicco, tutti vogliono l'aumento. La grande caccia all'aumento in busta paga al Comune di Roma è appena partita. 16.000 dipendenti su 24.000 hanno fatto domanda per strappare lo scatto nel cedolino, pur mantenendo le stesse mansioni di prima, e molti non sono nemmeno stati capaci di compilare la domanda di promozione senza uno strafalcione. Nei fogli hanno avvisato garbatamente i colleghi dell'ufficio personale, sono stati trovati centinaia di errori, ma non per questo è tramantata la possibilità dell'agognato avanzamento. Cosa succede? Si lamentano, dicono: e beh, ci avete tolto i buoni pasto perché eravamo in smart working. Sono finite le indennità, per esempio, sono quelle che normalmente ingrossano il netto in busta paga. Per esempio, l'indennità di sportello, che è, apprendiamo, è un bonus che intasca chi lavora a contatto col pubblico, attività riconosciuta come incombenza extra, anche se a prima vista non parrebbe straordinaria per un impiegato che lavora all'anagrafe. Ma tant'è. L'obiettivo è ottenere un aumento di 60-70 euro in più al mese. E questo avverrà tramite delle valutazioni. Valutazioni fatte da chi? Dallo stesso comune, attraverso i dirigenti dei vari dipartimenti e dei 15 municipi. Anche se i romani rifilano da anni solo votacci a tanti settori gestiti dal Campidoglio, come annotato dall'autorità di controllo sui servizi pubblici, le pagelle interne dei dipendenti sono quasi sempre impeccabili. Ai vigili urbani di categoria C, 4.068 agenti sui 6.000 del corpo, nel 2019 è stato dato in media il 94% del premio ipotizzato a inizio anno, quindi praticamente tutto. Tra i 3.100 impiegati amministrativi di categoria D, ognuno ha intascato sempre in media l'81% delle indennità prefissate. Se fossimo a scuola i voti andrebbero dall'8 al 9. Proprio grazie a queste valutazioni molti dei 16.000 candidati otterranno l'avanzamento orizzontale. Il grosso delle domande è arrivato da vigili, impiegati dell'anagrafe e insegnanti. Siamo a pagina 9 del Messaggero e il pezzo lo firma Lorenzo De Cicco. Vi voglio portare in questa prima parte della rassegna, poi arriveremo a toccare anche le questioni politiche e tutta la vicenda dei soldi della Lega, che si arricchisce di ulteriori elementi nella giornata di oggi, su un po' di questioni di genere, chiamiamole così. La prima è quella sulla quale ci porta la Stampa, pagina 10. C'era già un titolo su questo sul Libero nella giornata di ieri, e però la vicenda esplosa nell'arco delle 24 ore ed è questa. C'è un blitz della regione Piemonte sull'aborto che sta scatenando le proteste. Maurizio Marrone di Fratelli d'Italia, assessore agli affari legali, non vuole recepire le ultime direttive del Ministero sulle modalità di somministrazione della pillola abortiva RU486. Quali sono queste linee guida del Ministero? Che l'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico avvenga in day hospital e fino alla nona settimana, quello che il ministro Speranza aveva definito un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194, che è e resta una legge di civiltà. Secondo Marrone, tutto questo semplifica e banalizza la procedura, oltre a rappresentare un potenziale pericolo per la salute delle donne, e quindi con una direttiva, con una legge regionale, vuole ripristinare 3 giorni di ricovero e fissare a 7 settimane di gestazione il limite massimo per la somministrazione della pillola. Dice Marrone, eliminando l'obbligo di ricovero, la norma autorizza il ricorso alla pillola in regime ambulatoriale, quindi anche presso i consultori familiari, trasformandoli da luoghi preposti all'informazione per una scelta consapevole, come prevede la legge, in abortifici dove attuare direttamente l'interruzione di gravidanza. Ci sono ovviamente molte perplessità e molte proteste contro questa impostazione data dall'assessore regionale, che però ha intenzione di andare avanti. Ovviamente non è una decisione presa, però registriamo anche da qua, da Sempre a pagina 10 della Stampa, l'intervista alla sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, che parla in una proposta ideologica, gratuita e offensiva che verrebbe subito impugnata, quindi una bocciatura netta che arriva anche da un po' tutte le associazioni, soprattutto di donne che se ne occupano. Curiosamente Matteo Salvini invece prende una posizione morbida e lasciamo che siano le donne a decidere della loro vita e del loro futuro. E a proposito di donne che devono decidere della loro vita e del loro futuro, c'è questo incredibile dibattito in Francia. Guardate, son veramente colpito che esistesse una cosa, che potesse esistere una cosa di questo genere, e sicuramente diventerà un tema di dibattito perché la dimensione è ancora più larga di quello di cui adesso vi riferirò, ossia questo stop ai certificati di verginità, che dunque in Francia esistono ed evidentemente vengono ancora rilasciati. Una Francia spaccata, medici in rivolta, racconta a pagina 17 del quotidiano nazionale Giovanni Serafini. C'è gente che crede di vivere nel Medioevo, inizia con un virgolettato, con le parole di una ministra. Ci sono ancora delle ragazze in Francia che per ordine dei familiari debbono sottoporsi a visita ginecologica per ottenere un certificato di verginità, e ci sono medici che si prestano a fornirlo, quel certificato. A parlare Marlène Schiappa, ministro delegato per la cittadinanza, che è indignata. Pratiche di questo genere sono inaccettabili in un paese moderno e devono essere stroncate. Questo avviene ovviamente soprattutto nelle famiglie musulmane più tradizionali. Il tema qual è? Ci sono due fronti. Da una parte ci sono i medici che dicono attenzione, perché togliendo questa possibilità di farlo, per così dire, legalmente, rischi di far finire tutto nell'illegalità, e dall'altra parte il governo, che ha intenzione in realtà di andare un po' più a fondo su questa questione. Il ministro degli interni Gérald Darmanin ha intenzione di varare un provvedimento che non riguarderà solo i certificati di verginità, ma più in generale tutti i casi di separatismo, quello che una volta si chiamava comunitarismo, cioè abitudini, tradizioni e regole di residenti provenienti da altre comunità nelle quali risulti evidente il conflitto con lo Stato. Macron dice non deve esserci nessuno spazio in Francia per coloro che in nome di una religione, e a volte con l'aiuto di potenze straniere, cercano di imporre alla Repubblica la legge di un gruppo. Così la Francia, prevedibile che questo dibattito possa a un certo punto entrare anche in Italia. Visto che siamo sulle questioni di genere, vi porterei sul Foglio a questo punto, dove Giulio Meotti ci racconta, dalla prima pagina e poi prosegue a pagina 4, quello che sta succedendo intorno alla figura di J.K. Rowling, che tutti conosciamo perfettamente perché è l'autrice di Harry Potter. Che cosa sta succedendo? Che ha scritto un libro, così è, lo ha scritto sotto pseudonimo, ed è un libro che si intitola Troubled Blood, scritto da Rowling sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, ed è un thriller sostanzialmente. Cosa succede? Che viene coinvolta in una polemica che la vede tacciata di transfobia. Il suo assassinio non si consuma in una doccia, ma nei social, e per mezzo non di un coltello, ma di uno shitstorm. Nell'ultimo romanzo di Rowling, il cattivo è un assassino che si veste da donna. Non importa che i transgender combattano proprio per non essere associati ai travestiti. È uscito ieri il libro ed è già alla gogna. Qualcuno ha bisogno di legna da ardere quest'inverno, recita un tweet. Il nuovo libro di J.K. è perfetto da bruciare. Una prima recensione del romanzo è apparsa sul Telegraph. La morale del libro è: non fidatevi mai di un uomo travestito. Tutto un mondo si è sentito oltraggiato da un romanzo di 900 pagine che non ha ancora letto e che ora considera Rowling come un vero Voldemort, una figura spregevole e malvagia, le cui opere dovrebbero essere bruciate. Il giornalista liberal dell'Observer, Nick Cohen, lo ha letto e ha difeso Rowling. Dire che è antitrans è una fesseria totale. Parlando al Foglio, Cohen spiega così il caso Rowling. I social media generano molto odio. È una questione complicata quella dei transgender, ma lo spettro dell'intolleranza e della censura alligna ormai a sinistra. E per chiudere questa parte, i cattivi social, c'è una mega campagna che anche qua sta facendo discutere, lanciata da una serie di star. Siamo a pagina 15 della Repubblica, la racconta Massimo Basile. una serie di star, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen, Katy Perry, Demi Lovato, Naomi Campbell, Mark Ruffalo, 14 star dello spettacolo che hanno deciso di congelare per un giorno i loro account Facebook e Instagram per protestare contro la diffusione di messaggi d'odio e disinformazione, una campagna sostenuta da una serie di associazioni il cui obiettivo alla fin fine è il gran capo di Facebook, Mark Zuckerberg. Qual è il punto? Il punto è, lo riassume così Sacha Baron Cohen, facendo l'esempio è questo: ci fosse stato Facebook negli anni 30, a Hitler sarebbe bastato uno spot di 30 secondi per promuovere la soluzione al problema ebraico. L'unica cosa più spaventosa di Zuckerberg che surfa con il volto bianco di crema sono il suprematismo bianco e le bugie che diffonde ogni giorno. E dunque parte questa campagna lanciata dalle star che bloccano i loro account Facebook e Instagram solamente per 24 ore, facendo perdere un po' di soldi, ovviamente, anche a Facebook. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da... Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Come spendere quei soldi, 209 miliardi, innanzitutto nessuno ne parla, sulle ambulanze, il sistema sanitario che è basato 80% sul volontariato, solo in Lombardia, te lo dice un volontario che fa la notte Croce Bianca a Milano e la mattina va a lavorare. È un buono spunto. Per quello però volendo ci sarebbero i soldi del MES, del fondo salva stati. Però no, non si può dire. Siamo alla parte più politica della nostra rassegna. Tra poco arriveremo anche al discorso di Ursula von der Leyen. Ne parleremo col nostro direttore Fabio Tamburini alle 7.45 nel consueto appuntamento del giovedì. C'è molto materiale sui giornali sull'inchiesta sui soldi della Lega e iniziano ad emergere, vi ricordate, ne avevamo parlato nei giorni scorsi con Paolo Mieli, iniziano ad emergere le prime intercettazioni. La si pensi come si vuole sulle intercettazioni, però sui giornali ci sono e così è. Il commercialista della Lega titola Il Fatto Quotidiano a pagina 4: se parlo io è un bel casino. A parlare Michele Sciglieri, uno dei tre commercialisti indagati dalla Procura di Milano per la vicenda Film Commission e i presunti fondi neri alla Lega, è molto più che arrabbiato mentre parla con un amico avvocato. Dice: questi non mi devono scassare le balle perché io di cose ne so e vorrei tenermele per me e portarmele nella tomba. Però se apro quel cassetto... E cita un altro personaggio, un'altra storia, un'altra vicenda che si connette alla storia precedente, all'inchiesta precedente, almeno nell'idea dei magistrati. Dice Sciglieri: baracchetti service, 1,5 milioni di fatturato in un anno, questi qua prendono i soldi della Lega e si comprano le ville e fanno la bella vita. Di Ruba ha messo su un bellissimo concessionario in Valseriana, Baracchetti è un elettricista che ha la casa accanto a Di Ruba e che un bel giorno ha deciso: ora divento un imprenditore di successo. Alberto tramite la Lega gli ha dirottato tonnellate di soldi, non di lavori, di soldi, e queste sono le parole di Sciglieri. Ma cos'è questa benedetta Baracchetti Service della quale sentiamo parlare qua? Lo raccontano Gianluca Paolucci e Monica Serra sulla Stampa, pagina 7, un'azienda che dal 2011 al 2018 passa da un fatturato di 282.000 euro a 4,12 milioni, con una crescita che diventa esponenziale nel 2015. Ed è qua l'intreccio con la vicenda russa, ve la ricordate, quella di Gianluca Savoini, presidente dell'Associazione Lombardia Russia, uomo di riferimento di Matteo Salvini per i rapporti con Mosca, che trattava una grossa fornitura di petrolio che avrebbe dovuto garantire attraverso uno sconto, almeno secondo l'ipotesi dei magistrati, anche qua siamo fermi là a aspettare gli esiti dell'inchiesta, 65 milioni di dollari nelle casse della Lega. Questo è quello che pensano i magistrati, naturalmente quello che sostiene la Lega è completamente diverso. Ma c'è un legame tra le due inchieste a questo punto, perché la Baracchetti Service ha appunto una società e un conto in Russia, e le due cose a questo punto si ricollegherebbero. Questione ovviamente molto complessa, che ha a che fare, come ovvio, con dei flussi di denaro. Sarà tutto da appurare, tutto da capire, vedere anche cosa dirà la difesa. Intanto sui giornali escono questi elementi a ridosso delle regionali. Le questioni Covid, molto, molto rapidamente sulle questioni Covid vorrei segnalarvi solamente due pezzi. Il primo è quello che trovate sulla Verità a pagina 12, c'è anche su qualche altro giornale, ma sulla Verità ci vanno più duri. È un tema che abbiamo trattato anche qua 24 mattino, lo ricorderete, nei giorni scorsi alle 6.45, è il fatto che nelle farmacie i vaccini antinfluenzali rischiano di non trovarsi, basteranno solo per gli anziani, le farmacie devono comprarli all'estero. Sono state ordinate 16 milioni e mezzo di dosi di antinfluenzale dalle regioni, i privati sono a secco, studi medici e piccoli a rischio affollamento. È importante, perché anche se ha un'efficacia nel 45-50% dei casi, scrive Maddalena Gugliotto sulla Verità, l'antinfluenzale contribuisce a ridurre il carico di malattie nella popolazione, contenere il numero di casi di influenza, quando in contemporanea circola il virus del Covid-19 nel quale i sintomi sono simili, facilita la diagnosi corretta ed evita il sovraccarico del sistema sanitario. Ma appunto, al momento siamo un po' bloccati. La conferenza Stato-Regioni ha chiuso l'intesa per rivedere la quota delle dosi dei vaccini influenzali da destinare al territorio per un valore dell'1,5%, che equivale a circa 250.000 dosi. Il presidente della di Federpharma, Marco Cossolo, dice che è un primo passo ma insufficiente, perché l'anno scorso sono state vendute a pagamento 800.000 dosi in farmacie e quest'anno si stima un bisogno tra 1,2 e 1,5 milioni. Come vedete, la questione è tutt'altro che risolta. L'altra è una bella pagina del Corriere che adesso sto cercando di recuperarvi ma non riesco a trovare. Eccola qua. Il tema dei certificati di malattia a scuola. C'è una giungla di regole nelle regioni. Non si sa esattamente come comportarsi anche nelle regioni nelle quali ci sono le regole. Se i nostri figli si assentano per malattia ma non per il coronavirus, cosa devono fare per rientrare in classe? È una delle domande classiche. E la risposta non solo cambia da regione a regione, ma non sempre è chiara. Il problema ma non sarà solo distinguere le normali influenze dal temuto virus, ma anche applicare le procedure in maniera non burocratica, con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di contagi, ma senza paralizzare le attività didattiche ulteriormente. E quindi le risposte che più spesso arrivano dalle scuole è: si dovrebbe, forse, in teoria, un po' come è stato con i corsi di recupero per i ragazzi che li hanno dovuti seguire, con le scuole che ti dicevano sì, li dovrebbero seguire, ma non è obbligatorio, perché tanto non è che se non li seguono c'è la bocciatura o succede qualcosa di particolare, al limite incide sul profitto dell'anno prossimo, e quindi anche qua non si sa esattamente. Infine, e ci arriveremo tra un attimo, al Ursula von der Leyen, però prima vi porto sulla parte politica, se volete, della questione. Ha parlato di rivedere l'accordo di Dublino, Ursula von der Leyen, finalmente, di cancellare l'accordo di Dublino. Ebbene, a commentare dalle colonne della Stampa è il ministro per gli affari europei, Enzo Amendola, che non solo tira fuori questo tema, ma dice su Dublino un passo storico, ora addio ai decreti Salvini. Il ministro per gli affari europei dice sì al taglio delle tasse, se dà più efficienza, sgravi sugli investimenti nella tecnologia, punteremo su banda larga e su una maxi rete di cloud. E però appunto ritorna il tema della cancellazione dei decreti Salvini. Vi ricordo che di questo parleremo a partire dalle 8.35, lo faremo col vice ministro dell'interno e con un esponente della Lega, per proprio avere le due posizioni su questo e anche su come funzionano le cose in Italia. Il tema dell'assassinio di Don Malgesini a Como tiene ancora banco. Da una parte, ve lo dicevo, la Verità che scrive: anche il Papa si è fatto fregare dicendo che Don Malgesini è stato ucciso da un pazzo, ma in realtà il tema ha a che fare con l'immigrazione, dice la Verità. Il problema è proprio l'immigrazione. È un po' sulla stessa linea anche Il Giornale, il quale dice: nascondere il fatto che questa persona fosse stata espulsa, fosse destinataria di una serie di decreti di espulsione, fosse ancora in Italia, è sbagliato. Avvenire invece si dedica a quella che è stata la veglia per lui, scusate, la lunga notte tra gli ultimi di Como. Come faremo ad andare avanti nello scavo inviato a Como, che racconta questa nottata e questa piazza, anche con dei criteri di distanziamento discutibili, però a prescindere dalle misure Covid, il tema è proprio questa piazza che è piena di gente che inveglia dopo la morte, dopo l'assassinio di Don Malgesini. Ne parleremo anche di questo tra poco. Intanto il traffico, ci ritroviamo tra un istante. Le 7:48 minuti, siamo con il nostro direttore anche del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti, eccomi qua. Giovedì mattina. Sì, Fabio, senti, io vedo aria e... Oggi abbiamo in pagina questo pezzo che ci racconta, firmato da Marco Rogari, che ci racconta che dai decreti legge anti-Covid avanzano 20 miliardi che non sono stati spesi. Sento puzza di tesoretto, la famosa parola tesoretto, anche se a quanto pare il governo potrebbe anche decidere di utilizzarli per ridurre l'impatto di deficit e debito che quest'anno è stato particolarmente violento. Sì, certo, il tesoretto probabilmente c'è e il problema è che non mancano i quattrini, i capitali ci sono, il problema è come investirli, questa è la tragedia vera. I soldi a disposizione ci sono, è arrivato il momento di progetti chiari, di fare una selezione e di presentarli al Paese e all'Europa. L'Italia è il Paese dei 1000 campanili e sta diventando il Paese dei 1000 progetti. Occorre un colpo di reni, occorre fare una selezione, occorre sapere su cosa puntare, chiarirsi le idee e passare dalle parole ai fatti. Alla fine poi i capitali da investire, e grazie anche all'Europa, in questo momento non mancano, non è quello il problema. A proposito di Europa, ieri c'è stato il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, un discorso ovviamente ampio, come deve essere in questi casi, nel quale si è parlato di immigrazione, dei famosi accordi di Dublino da rivedere, e però si è anche ipotizzata l'idea di una sanità europea, è quello su cui titoliamo oggi sul Sole 24 Ore, Fabio. Questa è stata la vera novità di ieri. La sanità in Europa non è tra i compiti che toccano l'Unione Europea, quindi questo passaggio del discorso del Presidente ha una rilevanza non banale. Evidentemente la pandemia insegna, la sanità è diventata centrale e quindi è diventata tra i compiti europei. È importante anche per l'Italia perché credo che l'Italia abbia un servizio sanitario avanzato, nonostante tutto quello che spesso viene detto, però si può fare molto meglio. E i fondi europei possono certamente aiutare. Per esempio, c'è un aspetto: gli ospedali italiani, che spesso rappresentano delle eccellenze da un punto di vista della sanificazione degli ambienti, c'è ancora molto da fare. In ospedale si va per curarsi, ma spesso, troppo spesso, le persone più fragili si ammalano. E di questo io credo possa essere una priorità su cui lavorare. Sì, tra l'altro il tema per le residenze degli anziani. anche nell'RSA purtroppo le persone che vengono ospitate molto anziane spesso lì si ammalano, troppo spesso. C'è un problema di sanificazione degli ambienti sia negli ospedali sia nelle case di sia nelle case di riposo. Tra l'altro, appunto, Ursula von der Leyen ha proposto questo summit globale in Italia proprio sul tema della salute, un riconoscimento e una sfida per l'Italia, l'ha definita il Presidente del Consiglio Conte. Comunque, se volete ulteriori dettagli sul discorso di Ursula von der Leyen di ieri, che ha toccato anche i temi, oltre che della salute, dell'ambiente, del digitale e il tema, come diciamo, dell'immigrazione, c'è un ottimo pezzo di Beda Romano a pagina 5 del Sole 24 Ore che racconta tutto. Speriamo che non si cominci a litigare se farla a Milano, se farla a Roma. O a Torino o chissà dove, sì. Sì, speriamo che non si litighi almeno su quello. Per il momento si parla di Roma e Milano. Vabbè, speriamo che non scatti, lo scontro. Fabio, l'apertura del Sole 24 Ore invece è dedicata al tema dei mutui, perché quelli a tasso fisso arrivano sotto quota 0,50, a testimonianza della grande quantità di liquidità che c'è sul mercato. Tassi mai così bassi. Confortato questo tasso così basso anche dall'assenza di inflazione, però il dato è importante. Ce l'avessero detto soltanto 2 o 3 anni fa, sarebbe stato inimmaginabile. per tutti noi, però prego. Abbiamo scelto di fare l'apertura perché questo è un campanello che vogliamo suonare ai nostri elettori. L'Italia è il paese delle proprietà immobiliari. È anche il paese dei mutui, perché alla fine le case bisogna comprarle, occorrono i soldi vengono presi in banca, bisogna fare il mutuo. E quindi attenzione, cari lettori, e attenzione, cari ascoltatori, questo è il momento del tasso fisso. Sì, è il momento del tasso fisso. Nel frattempo però qualche preoccupazione sul sistema bancario c'è, lo abbiamo segnalato sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi, ci torna oggi Alessandro Graziani con un suo commento, ne parla Davide Colombo riferendo delle parole di ieri del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, se ne occupa Luca Davi con un po' di interviste a banchieri ed ex banchieri, al mondo delle imprese, al mondo dei banchieri. Il tema qual è? Che ci sono delle regole per le banche che sono state pensate ovviamente pre-Covid e che rischiano di creare un problema soprattutto al nostro settore bancario. È la cronaca di un disastro annunciato. Se non c'è coerenza tra le misure d'emergenza messe in campo per dopo la pandemia, a causa della pandemia, le banche rischiano di essere stritolate. Da una parte sono chiamate a essere tramite di liquidità verso le imprese, ma siccome la crisi economica c'è e ancora lo sviluppo economico è tutto da costruire, è chiaro che le imprese in difficoltà significa difficoltà di restituire i soldi presi a prestito. E quindi ci vuol poco a immaginare un sistema bancario che alla fine dovrà fare i conti con una ondata di crediti inesigibili e di conseguenza rischiano di andare in difficoltà le banche. Quindi attenzione, perché le banche potranno essere al centro di una ondata difficile da arginare. È bene aiutarle, perché aiutando le banche si aiuta tutti noi. Allora, grazie anche per oggi al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, alla prossima, a giovedì prossimo. Tra l'altro proprio su questo tema c'è anche, vi segnalo al Sole 24 Ore, un pezzo dedicato alla Federal Reserve che ha fatto sapere che non ci saranno rialzi dei tassi almeno fino al 2023. Tra poco ci ritroviamo dopo GR24, come di consueto, con il commento dei fatti di giornata insieme a Paolo Mieli, e poi, come vi dicevo, parleremo di immigrazione con due fronti che sono aperti. Da una parte le regole europee e questa nuova speranza lanciata da Ursula von der Leyen di revisione del trattato di Dublino, quello che impone ai richiedenti asilo di chiedere nel paese di approdo, ed è quello che ha creato tanti problemi all'Italia. E dall'altra il fronte interno è tutt'altro che risolto. In Italia si parla di 600.000 irregolari, le espulsioni sono difficili anche in presenza di un accordo bilaterale con un altro paese, come nel caso della Tunisia, e la dimostrazione è nella vicenda dell'assassinio di Don Malgesini, ucciso da un uomo che appunto era di origine tunisina, destinatario di più decreti di espulsione e che non siamo mai riusciti a rimandare sostanzialmente nel suo paese. 800 24 00 24 se vorrete intervenire in diretta dopo il GR.